Non so se avete seguito la polemica che ha opposto nella terza pagina del Corriere della Sera un paio di settimane fa una scrittura di un certo peso come Giovanni Mariotti e Guido Paduano, filologo di vaglia e recente traduttore dell'Iliade di Omero. Al Mariotti, che prendeva in considerazione l'incipit del poema, perché sarà un caso, ma in queste discussioni come quelle delle tesi di laurea hanno una spiccata predilezione per le prime pagine dei testi in questione, al Mariotti non piace come Paduano ha tradotto gli epiteti con cui si caratterizzano nell'originale i protagonisti della celebre Vite. Agamennone, che Anax Andron, come a dire signore di uomini, non dovrebbe diventare capo di eserciti. E Achille, che è semplicemente Dios, divino dovrebbe restare e non ridursi a semplice nobile, come traduce il Paduano. E questo per non perdere in italiano l'opposizione che Omero, ammesso che Omero sia mai esistito, avrebbe voluto instaurare tra la sfera puramente umana di Agamennone, signore di uomini, e quella di Achille, che è figlio di una dea e appartiene quindi a un ambito superiore. Per concludere, che non sempre la traduzione può essere rigorosamente fedele, ma deve esserlo ogni volta che può. Il Paduano, seccato, ha risposto che il testo con Anax Andron designa un capo di una comunità militare organizzata, per cui un capo di eserciti è la traduzione giusta, e che Dios in quei poemi è usato con tanta liberalità ed è attribuito a tante di quelle persone, compresi i porcari, che proprio divino non può voler dire. Dopodiché ha perso un po' le staffe ed ha accusato l'incolpevole Mariotti di indebita sacralizzazione del mondo classico, del vizio idealista di voler vedere sempre e dovunque riverbero di un altro universo, che per un autore che nella sua opera narrativa si dedica soprattutto all'operazione inversa, cioè alla desacralizzazione dei racconti sacri tradizionali, è un po' un insulto sanguinoso, ma questo non ci interessa più di tanto. Io non verrei metter becco in un dibattito dal livello così alto, anche perché io appartengo a una generazione che Omero in italiano è stata costretta a leggerlo negli endecasillabi del Monti, per cui i due litiganti per me restano indelebilmente il re dei prodi Atride e il divo Achille. E poi soprattutto io sospetto che buona parte dei problemi del Paduano siano nati dal fatto che, essendo comparse negli ultimi 2 o 3 anni per nessun'altra ragione che quella editoriale, non meno di 5 nuove traduzioni omeriche, e lo sforzo di differenziarsi dai colleghi uno deve farlo comunque. In ogni caso, sul piano filologico le sue osservazioni sono ineccepibili. Il Mariotti gli risponderà di nuovo che chi definisce Greta Garbo divina non intende sacralizzarla, ma postula lo stesso una sua superiorità, ma a questo punto il dibattito finisce nel campo dell'opinabile, tanto vale lasciarlo lì. Il fatto è che tutti e due, come succede spesso, qualche ragione ce l'hanno, ma hanno anche i loro torti. L'invito a ricorrere quando si può una traduzione letterale sembra sensatissimo, ma non tiene conto del fatto che tra due lingue non esiste mai quella perfetta bionivicità di vocabolario e di struttura che renderebbe la traduzione un'operazione puramente meccanica. Altrimenti io sospetto che le lingue non sarebbero più due, sarebbero la stessa. E la volontà opposta a quella di cercare il valore semantico dei termini da tradurre nella globalità dell'opera in cui funzionano, dello schema in cui sono attivi, per cui Agamennone è un capo di eserciti non perché Anax Andron disegni di regola i capi militari, ma perché in tutta l'Iliade lui è descritto come un capo d'eserciti, e rischia un po' di far dire al testo più di quello che dice. E poi soprattutto c'è un equivoco che forse varrebbe la pena di chiarire. Quando diciamo che in greco, in armeno o in masai, non so, la tal parola vuol dire questo e non quello, che Dios vuol dire divino e non nobile, ricordiamo una volgarissima, sia pur necessaria, semplificazione, perché il greco o il filippino, il masai, il turcomanno, in sé naturalmente non esistono. Esistono una quantità di testi che tramandano l'eco di certe operazioni degli individui che parlavano, operazioni che per vari motivi noi decidiamo di attribuire a una lingua comune, nello caso specifico il greco, anche se nulla ci impedirebbe, se del caso, di scomporle in altra realtà, non so, di attribuirlo a uno dei dialetti storici del greco letterario. Quando si parla di Omero, per esempio, la facies linguistica è tanto incasinata che gli studiosi hanno risolto la situazione dicendo che Omero è scritto in un dialetto speciale che si chiama omerico, e con questo hanno risolto tutto. Ma anche questo non ci interessa. Ci interessa il fatto che i parlanti, qualsiasi cosa parlino, non prendono le parole così come sono dal vocabolario e le tramandano immutate e intatte ai loro discendenti. Con grande dolore dei puristi si riservano la massima libertà, le trasformano, le cambiano di significato, le spostano nell'ambito all'altro, ne fanno oggetto di metafora, di categorizzazione, sempre a seconda delle necessità che via via sorgono. Achille era divino, sì, perché era figlio di una dea, non ci scappa. Però nell'Iliade è difficile trovare qualcuno che non vanti la parentela almeno con un dio. Anche Agamennone credo a cercarla. Per cui il termine o vuol dire qualcosa d'altro o è talmente poco caratterizzante che non vuol dire niente, che è quanto si intende di solito quando si dice che è un termine formulare. Peraltro quel qualcosa d'altro è espresso da una parola che comunque indica una relazione con l'ambito soprannaturale, non la visibilità sociale, per esempio, no? Per cui non si può mai laicizzare al 100%, un residuo di divinità se lo trascina sempre dietro. E allora il traduttore, pover uomo, per quel poco che lo pagano, dovrebbe essere in grado di indicare contemporaneamente quello che il lettore originario capiva senza sforzo, il prima e il dopo del termine. Deve essere capace di esprimere al tempo stesso, di negare la sua origine e la sua trasformazione successiva. E le parole non solo hanno una storia, ma hanno soprattutto una dinamica che riflette il dinamismo delle operazioni mentali che le producono. E il rischio di chi non se ne rende conto è quello di finire prigioniero delle parole che usa, che è un modo come l'altro per perdere un altro brandello della propria libertà. Insomma, la vita del traduttore è proprio una vita da